sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qual è la sua canzone di Sanremo? Una vita spericolata. Che la canta? La canta. Vedi là, vedi là. Là. No. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come nei miei film. Amo di Dio buono, va bene, no? Il presidente della SAP, Massimo Ferrero. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come... Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Daniele Buonamici in redazione, tutti quanti, anche Pierluigi Pardo. Come va? Bene. Invidiamo come pazzi Boris Sollazzo, che si trova lì nella cornice dorata di Sanremo, mentre noi è una settimana che rimestiamo tra righe, geometrie, tavecchi e abodi, e anche oggi non ci siamo fatti mancare nulla con i lotiti di turno. I lotiti. Boris Sollazzo, portaci via. Portaci a condurre Sanremo, ce l'avevano promesso. È difficile, ragazzi. È difficile perché qui a Sanremo ne ho visti pochi di ambienti folli come quello del calcio, insomma, ostaggio di polemiche finte o da sei anni, a ieri al Dopo Festival che hanno cancellato per 3 ore, poi l'hanno rimesso. Cioè, mi sembra che ci sia la stessa tendenza a fare teatrino. Non a caso quello che si è trovato meglio, cioè il numero comico migliore, non l'ha fatto Siani, non l'ha fatto Pintus, ma l'ha fatto Ferrero, appunto. C'è stato anche si è insorti in sala stampa, perché si fa fatica a capire perché Siani e Pintus dovessero avere un quarto d'ora e Ferrero solo 3 minuti. Lui se n'è anche lamentata. Se n'è continuato a lamentare anche dopo, cioè lui è uscito dalle quinte, poi è uscito dall'Ariston e continuava a fare: no, ma perché io potevo andare avanti ancora 3 minuti? Cosa canteresti con Ferrero, Pierluigi? La Sampdoria ha una serie di canzoni abbastanza... c'è una canzone dei New Trolls che si chiama Lettera d'Amsterdam, che secondo me se la sente il presidente forse la conoscerà già. Insomma, una canzone musicalmente interessante. Come chiaramente fa? Adesso chissà com'è adesso la domenica con lei, dimmelo tu che puoi sentire i brividi che dà. È una canzone vera e propria, sì. È una canzone tipo Roma Roma di Venditti, nel senso che è una canzone che poi viene utilizzata anche per lo stadio. Non credo sia una canzone fatta solo per la squadra di calcio, anche se il contenuto è per una squadra di calcio. E credo che Max Pezzali, poi pochi lo sanno, qualche anno fa invece ha fatto Sei fantastica o sei bellissima, Sei fantastica dedicata all'Inter, anche se è una canzone che sembrava invece dedicata a una donna. Insomma, sono grandi amori pure quelli, no, per una squadra di calcio, anzi. Sì. Boris Pierluigi ha appena cantato meglio di Grignani e Raff. Sì, eh? Ti ringrazio della fiducia. Cioè, più che ringraziare me, insomma. Senti, ma arriva Conte, Boris? Arriva Conte, è confermato che arriva Conte. Per fortuna Annibali hanno portato una bicicletta, non palleggeranno invece Conti, Conti e Conte, fa abbastanza ridere anche dirla così. Qui ci sta un po' di maretta perché per via del rinvio a giudizio loro si sono giustificati in maniera abbastanza divertente, perché qui si sono arrabbiati sia per la Nannini che per Conte. La Nannini per l'evasione e Conte per il rinvio a giudizio. Sulla Nannini hanno detto, beh, ormai si è messa d'accordo con l'erario, quindi è passato in giudicato. Su Conte hanno detto, non possiamo essere giudici, non è ancora passato in giudicato, sostanzialmente l'unico che non può venire a Sanremo è uno che va in galera. Sì, tendenzialmente sì, perché ha altro da fare. Esatto, che poi appunto, cioè, anche là si canta poi in galera, quindi potremmo anche fare una trasmissione là, una cosa là, forse ci si divertirebbe anche di più, perché poi vi assicuro che 4 ore piazzati a guardare questa trasmissione, che io non so come faccio a fare questi ascolti bulgari, ma è di una noia mortale, è un po' una galera, ma sicuro. Twitter. Sanremo senza Twitter, io non credo che Twitter sia stato inventato qualche anno fa, perché Sanremo senza Twitter non avrebbe senso, insomma. È divertente il cazzeggio o appunto la visione di gruppo nel salotto. Io per esempio ieri ho twittato, hai visto che guardano tutti il Gobbo? Io preciso che per me Carlo Conti è un fenomeno, cioè lo dico proprio ufficiale, nel senso che è uno che include tutti. Veramente il successo secondo me non è casuale, perché veramente uno magari non avrà tantissimi fan scatenati, persone che farà impazzire, ma è veramente da questo punto di vista un presentatore che accoglie tutti, che fa il suo sì, veramente. Perfetto. L'unica cosa è che c'hanno sto Gobbo che guardano tutti. A un certo punto, come ho scritto ieri sera, avevo sempre il sospetto che ci fosse uno che mi entrava dalla finestra, perché guardano sempre sul lato sinistro dello schermo dove c'è il cartellone con le parole Gobbo, il cartellone non è quello di Notre Dame, il cartellone con le cose. Però dai, bravi, sono bravi. Fammi chiedere due cose secche a Boris Sollazzo. La prima, chi vince? Domanda banale. La seconda, ma come fai domani sera a guardare Palermo-Napoli? No, io la vedo, io per fortuna sono venuto qui per giornalettismo, c'ho un mio collega più giovane di me, come si fa con i colleghi più giovani, li sfrutti e io farò questo, insomma, senza nessun problema andrò in un ristorante qua vicino con cui mi sono già messo d'accordo, poi con calma alle 10:45, ci sono delle priorità nella vita, ragazzi. L'accordo con il ristorante rimane una cosa classica, no, ma no? Guarda, l'ho fatta Pierluigi, l'ho fatta a Ouagadougou in Burkina Faso, figurati se a Sanremo non trovo il ristoratore napoletano che mi fa vedere la partita. Certo. Senti, Sanremo chi vince, Palermo Napoli chi vince? Ma Salerno dopo. Sanremo chi vince, direi, temo il volo, spero Neck, e non pensavo mai di poter dire una cosa del genere. Chi vince? Temo il volo. Il volo? Sono, sì, ma il volo. Scusate, io proprio confesso clamorosa ignoranza, ma chi sono il volo? Sono famosissimi? Loro no, sono diventati famosi per Ci resta una canzone, Ci basta una canzone, non mi ricordo, il programma della Clerici. Ah, ok. E sono, diciamo, i mini tre tenori, sostanzialmente, che prendono e distruggono qualsiasi successo pop urlandolo come se fossero Pavarotti. E invece, scusa, Bianca Azzei, fra l'altro, insomma, bella figliola, ma da dove viene fuori? Scusate, magari è famosissima, che io proprio faccio outing. Non te lo so dire neanche io, ma credo che sia un talent. Io l'ho scoperta adesso, insomma. Io guardo poco i talent. Vabbè, comunque, domani scopriamo se i pronostici di Boris Sollazzo sono azzeccati. Grazie Boris, buon divertimento, A noi adesso ci tocca le cantate. Dai, Sollazzo, adesso a noi toccano le cantate di Lotito, che sono qualcosa di un po' più stonato, facciamo così. 800240024 traffico. Grazie presidente. No. Grazie. No, volevo salutare Sinisa, i ragazzi e tutti i santoriani e la tifoseria. Portiamo la gente allo stadio. Grazie presidente. E viva la Samp. È l'originale, no, che state guardando. Non è Crozza, è proprio l'originale. Ma quello vero! Pausa pubblicitaria! Torniamo. Ma quello vero! Ciao Conti! Ciao! Ciao! Tutti convocati! Lo so. per... Il capite in Lega di A decide Maurizio Beretta? Ah, io questo non lo so perché non ci sto nella Lega di A, non lo so. No, ma ti dico io, ma se non ne decide Maurizio Beretta? Zero. Sono di dominio pubblico, bisognerebbe discutere della legalità dei percorsi legali attraverso i quali questa telefonata intercettata da Pino Iodice, direttore generale dell'Ischia Isola Verde, ha registrata a Lotito, percorsi attraverso cui diventano pubblici, però ormai lo sono. Allora, Carpi in Serie A, che Andrea Bodi, commissario della B, lo ricordiamo, non si azzardi a portarmi in Serie A il Carpi e men che meno Frosinone, che non valgono un cazzo, perché sennò poi i diritti TV, che io sono bravo ma chi li vende. Beretta in Lega, cosa volete che conti? Conta zero. Mi ha raggiunto Giovanni Capuano, che sta finendo di ridere. Ciao Giovanni. Di che parliamo? Dovina. 800240024 è il numero verde. Pierluigi. Ci mancava la fine della settimana, la telefonata è intercettata, eccetera, eccetera. Pierluigi, che non vede l'ora di andare al Matusa a fare un Frosinone Milan. Al Matusa, l'ho sfiorato tante volte. Ma sai, devo confessarti che per un romano che vive bene a Milano, tengo a precisarlo, però il Frosinone in Serie A ha sempre un certo fascino, che significa tornare a casa, quindi a me non darebbe fastidio egoisticamente parlando. Ma no, guarda, il fondo di verità c'è nel ragionamento, con tutto rispetto per il Carpi, e cioè tutte quelle società che sono da un certo punto di vista il classico miracolo calcistico, cioè che sono state più brave perché sono riuscite a ottenere dei risultati impensabili, impronosticabili per realtà così di provincia, meritano un grandissimo applauso, ma è chiaro che dal punto di vista del bacino d'utenza sono non il massimo, cioè è chiaro che Carpi-Sassuolo, con tutto il rispetto, è un derby che insomma, storicamente quanta gente può muovere il derby Carpi-Sassuolo? E diciamo che non l'ho piazzata in prima serata, la domenica, piuttosto meglio un Milan-Palermo qualsiasi. È proprio questa cosa qui. Detto questo, poi il Carpi è bravissimo, si sta strameritando la Serie A, il Sassuolo per me, se continua così, ci sta per 20 anni in Serie A, perché ha una capacità di spesa che hanno pochissime altre squadre, e quindi complimenti a loro, veramente complimenti a loro. Però da un certo punto di vista il ragionamento ci sta. Nella replica per la cronaca, Lotito poi ha spiegato, si è difeso dicendo: il sistema calcio così com'è sta per saltare, voglio trasparenza, se il Parma oggi non paga le scadenze lunedì salta, e non risulta che abbia inviato alcun bonifico, per sempre per la cronaca, questo sistema che non regge, Carpi e Frosinone, a chi vendo i diritti con loro, così facendo arriveranno in A certe squadre dai dilettanti, lo dico pubblicamente, fra 3 anni come farà la Serie A a vendere i diritti se non ci sono squadre con un massimo 2000 spettatori, che ricavi avrebbero, il sistema incassa 100, spende 150, se il sistema continua così salta, il sistema richiede una riduzione di 18 squadre per ciascun campionato. Questa da un certo punto di vista possiamo dire che la Serie A ha già fatto un miracolo quest'anno a vendere i diritti per i prossimi 3 anni a 1 miliardo, se tu parli... Adesso tu mi provochi, ieri abbiamo avuto Bogarelli, cioè qui il punto è che questi che vendono i diritti televisivi per la Serie A sono dei fenomeni. Ribadisco l'invito, se per caso vogliono occuparsi dei nostri stipendi, quelle cifre sono perché dire, la Serie A oggi non è un mondo di crisi, con un prodotto calcio che sta peggiorando purtroppo, ahimè, ai noi, perché il calcio italiano non è quello di 10 anni fa, essere riusciti a fare più 20% rispetto al contratto precedente, secondo me è una genialata. No, ma soprattutto essere il secondo campionato d'Europa per ricavi da diritti TV, cioè appunto. Dopo la Premier, poi noi ci lamentiamo che la Premier incassa più del doppio, ma quello è un altro pianeta, noi prendiamo più della Liga, più della Bundesliga, più della Ligue 1 francese, questo secondo me è il dato che fotografa che il ragionamento di Lotito non è sbagliato, al di là che i modi sono ovviamente censurabili, ed è indifendibile, soprattutto anche un'altra cosa, che in Inghilterra, dove è vero c'è una tradizione un po' diversa, perché chi conosce l'Inghilterra sa che l'Inghilterra è veramente da questo punto di vista la patria del calcio, nel senso che ci sono veramente in ogni città c'è una squadra di calcio storica fondata 100 anni fa, con il suo pubblico, c'è molta più fidelizzazione rispetto a quello che succede in Italia, anche nei piccoli club, ma anche in Inghilterra sono arrivati in Serie A realtà minori, come il Barley, come il Reading, cioè non è che per forza devi avere devi avere Manchester United e Chelsea. Poi certo, è chiaro che dal punto di vista strettamente, guarda, ti dico una cosa che a Bodi non potrà mai dirti, no? Ma il contrario è che dal punto di vista del commissioner del campionato di Serie B, che ovviamente è super partes, per vendere i diritti della Serie B può essere comodo avere qualche realtà come è stata per esempio Verona, come è in questo momento Bari, come è stata Torino, cioè le grandi città che sono nel campionato di Serie B rappresentano questo è evidente, no? Ricordiamo che l'anno in cui c'era la Juventus, Napoli e Genoa, quindi è chiaro che da un punto di vista strettamente commerciale era una Serie A2 quella, non una Serie A. Tanto comunicato del Carpi che scrive, ha letto con Carpi FC 1909, ha letto con incredulità e viva indignazione la conversazione divulgata questa mattina dai mezzi di informazione, peraltro supportata da un file audio apparentemente originale ed autentico pubblicato sulla home page del sito ufficiale di uno dei principali quotidiani italiani nazionali, che è Repubblica naturalmente. Bruno, provincia di Modena, Carpi, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Niente, è uno scandalo quello che si è sentito da parte di Lotito. Dopo queste affermazioni il signor Lotito dovrebbe rimettere tutte le sue cariche che ha all'interno della Federcalcio e si dovrebbe andare a vergognare. Perché a noi non ce ne frega niente, a me personalmente il calcio non me ne frega niente, però da domani io sarò il primo tifoso di Carpi ed è un dovere adesso venire in Serie A, perché lui con quelle parole non ha offeso una società di calcio, ha offeso una comunità. Una comunità che, come giustamente stamattina ha ricordato il nostro sindaco, ha subito un gravissimo diciamo incidente di percorso, qual è stato il sisma di 2 anni fa, e ci stiamo riprendendo, rimboccandoci le maniche a tutti i livelli. Questo non mette in dubbio nessuno, e nessuno può mettere in dubbio nemmeno la rabbia e l'indignazione di qui sopra. Quindi il merito sportivo del Carpi non può essere sbeffeggiato da un signor Lotito che fin quando non è stato, diciamo, preso per il culo dal comico in TV, che non mi viene il nome, che lo imitava Max Giusti. Non lo conosceva nessuno. Lo conoscevano e come, almeno gli addetti ai lavori. Però Bruno, la rabbia è fatale. Da un lato stiamo parlando di rabbia, offese, sentimenti, e dall'altro lato è brutto dire che stiamo mettendo insieme due cose, i modi sono indifendibili e anche alcuni passi e anche probabilmente il contesto. Oggi Iodice ha spiegato dicendo che doveva cadere il muro d'omertà perché lui si sentiva, era stato minacciato da Lotito, quello poi magari ci sarà una denuncia e indagheranno i carabinieri, quindi quello è il contesto ed è indifendibile. Il ragionamento, caro Bruno, da Carpi ad esempio, è che se anche il Carpi mettesse giù una grande società di basket non gli basterebbe arrivare secondo nel campionato italiano per poter fare l'Eurolega l'anno prossimo, perché quello che dice Lotito ad esempio, l'Eurolega con le licenze, e Carlo Genta lo sa meglio di tutti noi, già lo applica e non è un sistema antidemocratico. Pensa all'NBA. Sì, però ma senza andare in America, stando qui da noi. Torniamo al solito discorso proprio sul concetto e la parola democrazia, che in qualche modo si lega anche a quello che dicevamo ieri, per esempio, a proposito della grande attenzione che le televisioni e le radio e i giornali nazionali hanno per le solite 5-6 squadre, tralasciando tutte le altre. È appunto il discorso, è democratico. In America hanno ribaltato il presupposto. In America tu partecipi, come il professor Genta ci può confermare, partecipi a una lega di football americano o di pallacanestro o di hockey perché c'è un bacino d'utenza, perché c'è uno stadio, ci sono delle persone che vengono a seguire una squadra. Si ribalta il concetto. In Italia e in Europa il concetto è diverso, ci sono le promozioni, ci sono le retrocessioni, può capitare la favola del Calais, per esempio, squadra dilettantistica, qualche anno fa arrivò nella finale di Coppa di Francia, ci possono essere appunto miracoli sportivi come un quartiere di Verona che in Serie A ci sta per 15 anni, certo. E questa è la nostra mentalità. Però la nostra quel cultura. Sistema non reggerebbe, cioè quel sistema non reggerebbe perché promozioni e retrocessioni sono il sangue, il cuore pulsante di cui per la nostra mentalità abbiamo bisogno. Perché poi tanto comunque, soprattutto nel calcio di oggi, che è un calcio basato veramente sui bacini di utenza, con i diritti televisivi, le grandi squadre poi alla fine hanno una marcia in più. Quello che a me da romantico dispiace è pensare che noi oggi difficilmente o forse in maniera impossibile potremo avere una Sampdoria o un Verona che vincono il campionato, perché per quanto possano fare una stagione strepitosa, ecco, oggi il campionato della Samp può essere arrivare terza o quarta in classifica, o di squadre di quel livello lì. Beh, non è che all'estero, Pier, in Germania stanno ancora aspettando qualcuno che succeda, certo, al Bayern di Monaco. L'anno scorso ha vinto l'Atletico Madrid e ne parleremo per altri 15 questo anni. È la Champions, questo è il meccanismo della Champions, certo. Che fa sì che arrivino soldi ai ricchi, che è l'esatto contrario di quello che succede invece in America col draft. Il draft, sappiamo bene che è un meccanismo che tende a dare la prima scelta del rookie, cioè del giocatore che viene dal basket dilettantistico, alla squadra ultima in classifica, cioè si cerca nei limiti del possibile di creare un meccanismo per livellare il certo, torneo. Certo, ci sono anche dei piani di programmazione che prevedono stagioni perdenti che in certo. Italia, in Europa sarebbero incomprensibili e inaccettabili. Ci fermiamo per la borsa, 800240024 è il numero verde. Intanto Cassano ha detto, come ben sai, a Mediaset, Bari è nel mio cuore, ma la vedo dura andare a giocare lì. A dopo. Non credo minimamente ci siano delle mosse illecite in queste cose qua, sono più delle cialtronate, credo, secondo me, o più forse la testimonianza di un atteggiamento un po' patronale che secondo me non va tanto bene. Con tutti i meriti che bisogna riconoscere allo Tito, della conduzione della sua società, che ricordiamo ha preso quasi fallita e ha portato nelle coppe e tuttora quest'anno sta facendo un grande mercato, ha fatto e sta facendo un grande campionato. Lotte per esempio alla criminalità organizzata, addirittura, di questo bisogna darne atto allo Tito. Forse adesso ha avuto, diciamo, una tendenza a fare le cose un po' eccessiva, ecco. Convocati. E al di là di quello che sono i titoli, qui c'è un problema di cui nessuno si preoccupa. Il sistema sta saltando, questo è un dato incontrovertibile, glielo dice uno che penso che sui conti ha dimostrato essere abbastanza a conoscenza. Ho posto un problema, io non ho fatto repressioni, assolutamente, questo è il programma, questo chiedevo di approvare questo, adesso ve lo do così per rendere conto se questo è, non ci sono nomi, non c'è nulla. Questa è una parte della difesa d'ufficio di Lotito. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano qui con me. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Anche a Lotito. Benissimo, grazie. Qualcuno dice lo state difendendo, non è così. Stiamo solo distinguendo tra i modi, le modalità, la cornice e il merito di quello che Lotito ha detto. Tu come io guarda. Io da questa mattina che vengo attaccato su Twitter, perché ho solo detto, lontano da me l'idea di difendere Lotito, perché Lotito può difendersi da solo, eccetera, eccetera, ma di questo signore che telefona e registra, ne vogliamo parlare? È stata la mia premessa. Questo signore non è un magistrato che ha detto, dice adesso andiamo a intercettare un ipotetico delinquente, è un signore che ha preso e ha registrato. Dopodiché a me hanno detto un'altra cosa, proprio poco fa, ma che Lotito sapeva della registrazione e che quindi avrebbe detto determinate cose, avrebbe lasciato registrare perché venisse allo scoperto tutto quello che sta succedendo in Serie C. Questo è un'ipotesi. La vedo dura però, perché non mi sembra che Lotito, al di là che in questa telefonata lui, Lotito fa una sorta di manifesto politico, ma non sono aperte elezioni, no? Da qui a breve in Federcalcio, mi sembra che Lotito ne esca molto male. Diciamo che se ha fatto questo è stato poco attento. E però sai, se lui avesse detto buongiorno come stai, è certo che il signore con il registratore non avrebbe fatto sapere niente. Attenzione, questa è un'ipotesi, io la dico così come mi è stata detta, dice per cui dice che lui lo sapeva, dice allora dice tiriamo fuori il bubbone. Dopodiché io sono andato anche a vedere le dichiarazioni di Lotito, ma è chiaro che era meglio se non le diceva, questo è inutile che ce le raccontiamo tra noi, no? Questo è ovvio, è sì, troppo logico. Ma per esempio, ma perché in America, negli Stati Uniti non fanno sì che il basket sia soltanto delle grandi società, e in Italia quante volte hanno discusso di fare una premier solo con squadre che fossero esponenti di grandi città tipo Bari o tipo Bologna, senza andare a prendere la mia Perugia, ahimè, oppure il Latina o squadre più piccole. Ah, è vero che se ne discute su questo, adesso non stiamo dicendo niente di clamoroso, no, è anni che se ne riparla nei giornali. Dopodiché, detto da Lotito, che in questo momento viene considerato l'uomo forte del calcio italiano, un po' fare impressione. No, ma poi, dopodiché, scusa Roberto, però non è solo perché lo dice Lotito. Il problema che lui dice, ad esempio, ad Andrea Bodi, che è il commissioner, il capo della Serie B, gli dice: tu non puoi portarmi più di una di queste squadre, e dà quasi ad Abodi il potere e la forza di decidere un campionato, e questo non è un dettaglio. Poi magari riusciamo a sentirlo a Bodi, cioè, perché Lotito è la seconda volta in una settimana, senza girarci intorno. Ieri parlavamo anche con Tavecchio dell'altra frase incredibile, quella dopo Lazio-Genoa, dove lui dice: gli arbitri mi trattano male, eppure io da consigliere federale ho fatto tantissimo per loro. Cioè, è la seconda volta che lui continua a mischiare i piani, okay? È questo che non va. Guarda, sono pienamente d'accordo su questo. Dico, guarda, che tanto senti Andrea, perché a Bodi va sentito, no? Ovviamente. Io ci provo dopo, ma se ci provi tu, ascolto te, mi va benissimo lo stesso. Perché mi curiosisce, perché una cosa è quello che lui dice a questo signore, e un'altra cosa è magari se l'ha detto o no a Bodi. Perché sì, è evidente che, allora, ma sul serio, un presidente può decidere chi vince i campionati? E questo sarebbe di una gravità enorme. Sì. E come lo decide? Tramite gli arbitri? No, ma sembra quasi il cortocircuito è questo, che Lotito in una chiacchiera al bar possa pensare questa cosa, e cioè che per il movimento calcistico italiano sia meglio avere in A, tanto per capirci, il Bari o che ne so, che qualcuno, o il Bologna, o il Bologna rispetto al Carpi. Questo ragionamento, che da un punto di vista strettamente numerico di bacino d'utenza ci sta, il meccanismo pericoloso nasce nel momento nel quale si può pensare che Lotito, avendo un ruolo, avendo un potere, possa muovere delle pedine affinché questo avvenga e il campionato possa essere taroccato. Ma è giustissimo, questa è la cosa più inquietante. Vedi che ci siamo arrivati, perché la gente sono le altre parole, no, che hanno fatto male. Però mi chiedo, tutti sappiamo che gli arbitri, cioè Nicchi, ha votato per Albertini, mentre Lotito e Abodi e Tavecchi appartengono all'altra corrente, quella che poi ha vinto. Ma allora in quale maniera, se queste due correnti non hanno rapporti, Anche Maccalli, non dimentichiamolo, appunto, ma se non ci sono rapporti, avete letto l'intervista sulla Gazzetta di Nicchi, no, quando parla, certo, di Tavecchio, ecco, ma se non ci sono rapporti, in quale maniera possono influenzare gli arbitri? Dopodiché io mi chiedo sempre, ma questi arbitri, ma perché si fanno influenzare? Questa è una storia del calcio italiano, per carità. Ma questo è il tema giusto. Sì, questo è il tema giusto. C'è anche quell'altro tema, secondo cui, che poi Lotito ha provato a spiegare, il presidente della Lega, Beretta, conta zero. Poi ha detto, ma no, conta zero perché decidono anche tutti gli altri. No, però, perché deve essere super partes, è un personaggio di garanzia, e quindi poi decidono i presidenti, come se i presidenti poi valessero ciascuno il 5%, cioè sì, uno su 20. Ma lo diciamo anche noi che Beretta non vale niente. Sì. Perché Beretta comunque fa un altro lavoro, perché sta lì soltanto perché ce l'hanno tenuto. Sì. Cioè, è chiaro che se lo diciamo noi la cosa non è grave, detta invece da quello che noi in questo momento, certo, dovrebbe comandare, è molto più grave, su questo non c'è dubbio. Però io dico sempre che sono discorsi fatti al telefono con una persona, non è una dichiarazione pubblica, sono, sì, fatti, io, non è un'intervista. Mi confermate, questa cosa è stata completamente intercettata, no? Sì, lui è stata registrata, signore, da Iodice. Ma ha spiegato però il perché, perché sennò facciamo passare Iodice per un pazzo. La facciamo in due parole: c'è un problema politico all'interno della Lega Pro, di cui l'Ischia fa parte, rischia di cadere il presidente Macalli, che è uno dei grandi sostenitori di Tavecchio. Lotito sta facendo campagna elettorale per cercare di evitare che questo succeda. Iodice, che è questo dirigente dell'Ischia, va raccontando da qualche settimana di essere minacciato da Lotito perché l'Ischia è su una posizione diversa. Per provare questa cosa che riguarda un taglio di contributi, eccetera, eccetera, ha registrato questa telefonata e poi l'ha diffusa attraverso Repubblica. Ok? Questa è la cornice, perché altrimenti magari da casa non tutti capiscono. Però rimane una cosa scorretta, secondo me, perché esiste una dinamica pubblica e una dinamica privata. Io francamente ti dico, per me è chiaro che questa è l'ennesima gaffe, non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima della gestione dello Tito, che è ovviamente contestabile per mille motivi, ma se questa è una telefonata privata e tale doveva rimanere, secondo me è scorretto che possa diventare una dichiarazione pubblica, perché poi io sono convinto che quel ragionamento lì, con tutto rispetto per il Carpi, poi ripeto, qui siamo di fronte a due logiche completamente diverse, nel senso che se c'è una società alla quale dobbiamo battere le mani, e lo dico per primo, è il Carpi, è il Sassuolo, Sassuolo, è il Chievo, cioè sono quelle società che riescono attraverso il loro lavoro, anche senza grandi introiti di botteghino e di diritti televisivi, a ottenere un certo tipo di risultati. Però si tratta di intendersi, Pier, o facciamo o appunto promuoviamo la Superlega in base ai bacini d'utenza o premiamo il merito sportivo. Cioè... Ma no, secondo me invece è ovvio che da un punto di vista commerciale sarebbe meglio se salissero Bari e Perugia e Bologna, però poi alla fine se saliranno invece squadre più piccole sarà meno bello da un punto di vista, sarà meno i diritti televisivi saranno venduti, a parte che sono quelli i diritti televisivi, ci saranno meno ascolti per le televisioni, meno gente al botteghino, però siccome ci piace il calcio, se la squadra se lo merita è giusto che salga. Ripeto, il problema nasce nel momento nel quale ma è tutto da verificare, Lotito si mette al lavoro per impedire che il Carpi possa venire in Serie A. Ecco, se succede questa cosa, ben oltre l'illecito sportivo e la richiesta di dimissioni. Se questa cosa non succede è una valutazione privata, sicuramente, perché nel momento nel quale viene esposta come pubblica diventa oggettivamente imbarazzante. Certo. Allora fammi tenere un attimo Roberto Renga col traffico, poi a Roberto vorrei chiedere, giusto per volare un po' via, ma poi riprendiamo ovviamente i discorsi, Piero a Carpi, Gianluigi da Salerno, Giuseppe da Bergamo, ascoltatori interessati, però dopo il traffico vorrei chiedere a Roberto Renga una cornice per la giornata di campionato che ci aspetta. Sembro fuori luogo, forse lo sono, però voglio farlo. Mi rivolgo qua al presidente della Lega Beretta, dottor Beretta. Lei è una persona di grande professionalità, riconosciuta per la sua serietà e per la sua professionalità in tutti gli ambienti che lei ha frequentato. Attualmente ha anche delle cariche importanti nel suo lavoro, ma si può sentir dire una cosa così, presidente? Diciamo le cose come stanno. Quando uno si sente dire che nel suo ruolo conta zero, è arrivato il momento di andarsene, forse, no? Tutti convocati. Allora, forse fuori luogo, ma voglio chiedere a Roberto Renga. Roma contro una realtà che di fatto non esiste più, come il Parma, uno fisso in schedina. Cesena, Juventus, col Cesena che sta provando a salvarsi, Palermo-Napoli domani sera. Ma direi che la partita più difficile è quella del Napoli, ovviamente, cioè, sai che scoperta. Perché il Palermo nell'ultima partita contro l'Inter fuori casa ha giocato molto male. E di solito in casa si trasforma e riesce a rendere un po' di più, sempre che si sia risolto in qualche maniera quel problema Dybala che è già emerso nel corso della partita. Dybala per la prima volta l'ho visto litigare con i compagni e protestare, non so come stia. E comunque chiaramente è la partita più difficile delle tre, su questo non c'è dubbio. Prima di salutarvi volevo dire viva i Carpi. Ecco questo. Viva, viva il Carpi a patto, viva a patto viva il, che da promosso, viva il Carpi. A patto, Roberto, che da promosso rispettino per una volta le regole che già ci sono. Non serve fare la Superlega, ad esempio quella sulla capienza degli stadi, perché la verità è che poi nessuna di queste squadre, il Carpi, il Frosinone, il Latina, che è l'altro nome che è stato fatto in questa mattinata, l'anno prossimo l'anno prossimo avrebbe mai uno stadio a portata di Serie A, ed esistono le regole sulla capienza minima, e il problema italiano è che noi andiamo di deroga in deroga, l'abbiamo visto anche negli anni scorsi anche di questo, no, ma non solo Sassuolo, il Cagliari non ne parliamo, ed è capitato ciclicamente anche l'Empoli credo che sia sotto come capienza rispetto alla capienza minima della Lega di Serie A. Ecco, forse basterebbe farle rispettare quelle regole e fare come fanno gli altri. Noi torniamo a parlare del basket. Vedi, questo è il solito discorso, è la solita contraddizione che nasce fra il risultato sportivo da una parte e la necessità di avere determinati paletti. È sempre il solito dualismo, perché da un lato se il Carpi è più bravo di una società che ha lo stadio da 60.000 posti, il Carpi merita di andare in Serie A senza alcun dubbio, e ribadisco il fatto che giochi in un ambiente più piccolo, secondo me è un ulteriore motivo per il quale secondo me si devono prendere un grande applauso. Però poi è altrettanto vero che se invece fai quell'altro ragionamento e segui l'altra logica e vuoi che il calcio venga giocato con certi standard, allora a quel punto hai bisogno di altre società. Però bisogna mettersi d'accordo da questo punto di vista. Io ribadisco, il Chievo, se ci fosse stata la logica, doveva stare per sempre in Serie C in Lega Pro, e invece è una squadra che da 15 anni è stabilmente in Serie A. Empoli è una città importante, ma insomma non è esattamente fra le 20 città più importanti d'Italia, per cui non dovrebbe mai mettere piede, il Carpi neanche a parlarne. Quindi romanticamente viva queste squadre che fanno questo tipo di lavoro. Sei un romantico. romanticone. No, non sono un romanticone. Però, poi io ti potrei dire che tu hai ragione, siamo tutti romantici, poi però i diritti TV, cioè quel miliardo che arriva, lo dividono non in maniera singolare ma collettiva, e quindi da un certo punto di vista questi fanno anche la Serie A e il calcio sulle spalle dei grandi che investono invece perché quei diritti valgano un miliardo. Non è vero anche però che le grandi investono, scusami, non è vero che le grandi investono. Se Carpi viene in Serie A o il Sassuolo è già venuto in Serie A, cioè è chiaro che la differenza tra Serie A e Serie B, ne parlavamo l'altro giorno a proposito della situazione del Parma, è enorme, per cui una retrocessione in Serie B significa vedere completamente compromessi i propri introiti dei diritti televisivi. È chiaro che andare in Serie A è una grande occasione e comporta inevitabilmente anche dei costi, però la logica dello sport si basa su questo, che chi è più bravo alla fine se lo merita e viene promosso. Io non vedo lo scandalo, sicuramente è inopportuno quello che ha detto lo Tito, ma è una conversazione privata che è stata rubata da quello che mi dite e da quello che ho letto, e quindi come tale deve essere presa. Certamente mette in imbarazzo se stesso, mette in imbarazzo Beretta, ma la sostanza poi del campo è che è più forte, e fino a questo momento il Carpi è nettamente la squadra più forte del campionato di Serie B, si merita con tutti i crismi di andare in Serie A, e l'anno prossimo si deve pappare i soldi e i diritti televisivi che si è guadagnato sul campo. Devo salutare Roberto Renga, se voleva aggiungere qualcosa gli lascio la palla. No, volevo solo dire che Perugia nel 74-75, quando venne, Perugia una piccola squadra, no? Di una piccola città, un po' più grande di Carpi, ma sempre piccola città, quando venne promosso in Serie A fece in 3 mesi lo stadio. È uno stadio che è ancora quello che potete vedere, perché è stato fatto in una maniera che non costasse moltissimo e la società riuscì a permetterselo, quindi si può fare. Dopodiché il problema, come sappiamo, quello sollevato da Galliani, è anche il numero delle telecamere in uno stadio piccolo, e qui Bardo ne sa molto più di noi, perché in uno stadio, quelli che vedo io in Serie C, le telecamere, ma dove le metti? Come fai a avere il numero minimo di telecamere? Mm-hmm. Cioè, ci sono problemi di questo tipo, ma si risolvono, no? Ragazzi, così come il Sassuolo si è messo a giocare a Reggio Emilia, cioè, si trova la soluzione, ma certo che si trova. Io tanto insisto, viva i Carpi, viva il Frosinone, ma ci mancherebbe altro. Grazie Roberto, grazie. Buongiorno. Ciao Roberto, prendiamo la tessera del Carpi e sentiamo Pietro da Carpi. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io rimango, cioè state facendo una discussione che secondo me lascia il tempo che trova, perché partiamo dalla meritocrazia, come giustamente lei ha fatto intendere prima, cioè di una società seria che paga tutti i contributi, che paga tutto, quella del Carpi, che fa la squadra con un decimo dei soldi che l'hanno fatta Bologna e che ci sono dietro. Per cui di cosa stiamo parlando? Se vogliamo dare merito alla meritocrazia, è giusto che il Carpi vada su. E poi ci stiamo qui a perdere con le regole dello stadio, cioè lo stadio di Modena, abbiamo Parma vicino, abbiamo Bologna, ma la Lazio di Lotito, visto che parliamo di regole, ma i suoi debiti, è stata l'unica in Serie A ad avere 20 anni per pagarli. Sì, sono debiti, ce lo ricordiamo. Sì, bene. Ecco, allora, se le regole valgono per noi, devono valere per tutti, e se noi siamo più bravi è giusto che andiamo su. Ma è quello che stiamo dicendo. Noi stiamo facendo un ragionamento di prospettiva, cioè se esiste un sistema alternativo. Poi è evidente che oggi campionato 2014-2015, e mi sembra che l'abbiamo detto, ma magari se non l'avete capito lo sottolineiamo, è inaccettabile anche solo pensare che qualcuno possa fare pressioni perché il Carpi o il Frosinone non vengano in Serie A. Chiaro? Dopodiché ragioniamo su cosa potrebbe essere un sistema diverso. Le faccio un'altra domanda. Pietro, sì. Sì, una sola domanda. Una sola, le rispondiamo però dopo la giornata radio, perché siamo in chiusura di blocco. Dica. Se avremo un rigore contro, come la possiamo pensare noi domani? Malissimo, e avrete anche ragione. Potete pensarla male, non vorrei essere l'arbitro. Però io posso fare un esempio in 18 secondi? Sì. Semifinali di Roland Garros. Mettiamo che ci siano Federer e Nadal che giocano contro due carneadi, no? Che si sono fatti la strada, sono stati bravissimi perché sono partiti dalle qualificazioni. Dal punto di vista dell'attenzione mediatica, uno che cosa spera? Di vedere la finale fra Federer Federer e Nadal o gli altri due? Cioè io, alla fine la cosa si riassume in questo qui, ma ripeto, dal punto di vista sportivo, quello che ha fatto il Sassuolo, quello che sta facendo il Carpi, quello che ha fatto il Chievo, è l'esempio, ha ragione l'ascoltatore, spendono un quarto, in certi casi un decimo delle altre società e vanno meglio, quindi complimenti. Però poi che ci sia magari chi si deve occupare della vendita dei biglietti, dei diritti, certo, televisivi, che la pensa diversamente, ci sta. Certo. Grazie Pier, ci sentiamo domenica. Ciao, ciao Pierluigi Pardo. Noi invece ci ritroviamo subito dopo il GR. Prezioso, dato che tu fai giochi preziosi, te sei il mio amore, ti volevo cantare Coccolino Dudu, Coccolino Dada, e tre goti facciamo sempre là. Tutti convocati. Allora, proseguiamo con Giovanni Capuani in questa settimana divertentissima. C'è chi scrive: ma perché domenica non chiamate Vanagogli, chiedete se lunedì non commissaria la Lega Pro, visto che il bilancio non è stato approvato. Quello della Lega Pro è un capitolo importante, ed è un capitolo... Comunque dovrebbe essere Tavecchio a commissariare la Lega Pro. Non Malagò, certamente. È un capitolo che va chiarito, il bilancio non è stato approvato, e prima di fare questi discorsi di Carpi in Serie A o non in Serie A, bisognerebbe dare una ripulita a tutto quello che sta sotto, no? Sì, ma non c'è dubbio. La Lega Pro in cui la maggior parte delle squadre non, o molte squadre non pagano gli stipendi, non sono in regola con i contributi, eccetera, eccetera. Perché la cosa insopportabile non è trovarsi con il Carpi in testa classifica di B, ma con il Parma in Serie A. Sì, a quest'ora. E a stagione praticamente compromessa, secondo me anche falsata, anche se poi ovviamente ci fidiamo di Donadoni e di tutti quelli che sono rimasti lì, e quindi non c'è un dolo nelle sconfitte seriali che il Parma sta facendo. Però è evidente che lì è venuto a galla che manca qualcosa nei controlli, in quello che si deve fare per permettere a una società di partecipare a un campionato importante, così come secondo me altrettanto evidente che non è un caso che sta succedendo tutto questo. Questa è l'onda lunga dell'estate che abbiamo trascorso intorno alle elezioni di Tavecchio, parlando di banane, ma non solo, perché poi il tema era quello dei soldi, c'erano temi molto più profondi e importanti anche rispetto alla frase di Tavecchio su Optipo Ba. Credo che tutto dipenda da quello. Intanto continuiamo a raccogliere, io suppongo, l'indignazione. Cristian Carpi, buongiorno. Buongiorno, ma indignazione. Io, salve a tutti, innanzitutto premetto che non sono riuscito ad ascoltare tutta la trasmissione per motivi di lavoro. Mi verrebbe però da dire che secondo me il ragionamento va distinto. Voi avete fatto un ragionamento giusto su quello che possono essere le prospettive future, cioè di una Superlega o come si vuole chiamare. Però lo stato attuale non è in questo momento così. In questo momento il campionato si gioca su promozione e retrocessioni. Beh, quindi no. Io da parte in causa, quindi posso anche non essere obiettivo. A me fa male sentir dire o detto con Abodi non farmele salire tutte e due. Vero. Perché vero. Qui c'è gente, comunque saremo in pochi, però noi paghiamo un abbonamento, un biglietto, abbiamo una presidenza seria che investe dei soldi. Noi nel nostro campionato di B giochiamo con squadre che hanno penalizzazioni, certo, perché non hanno pagato stipendi o IRPEF. Noi siamo in regola con tutto, e quindi capite anche il nostro punto di vista. No, ma infatti farei una distinzione fra le società sane e quelle che sane non sono. Cioè, non secondo me la distinzione draconiana, cioè il discrimine profondo tra le società sane e quelle che non lo sono. Poi possiamo discutere di bacini d'utenza. Mauro Modena. Buongiorno. No, io facevo solo una considerazione, perché di questo argomento Carpi ne avete già parlato ampiamente, però, ma se adesso per una domenica o due disgraziatamente succede qualche decisione arbitrale abbastanza scandalosa contro il Carpi, ma cosa può succedere? Secondo me l'ho fatto una sparata completamente sbagliata. Io penso potrebbe valere anche il ragionamento contrario, Potrebbe valere anche il ragionamento contrario. Detto questo, qualcuno l'ha anche scritto prima: il Carpi va in Serie A, matematico. Allora, Michele Plastino, la cui lazialità e la cui onestà intellettuale non è in discussione. Ciao Michele. Oh, buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno e buon lavoro. Come stai? Bene, bene. Cosa ne pensi? Allora, è chiaro che per onestà, tra virgolette, intellettuale, faccio uno sforzo di oggettività, perché tu sai bene che quando viene fuori poi il vecchio tifoso, il presidente della Lazio non lo amo, sì. però il giornalista deve sempre prevalere. Allora ti dico che capisco tutto, ma io non sono neanche così scandalizzato, nel senso, è tutto nella prassi di questo sistema, è nella prassi di tutta quella organizzazione che ha portato da vecchio presidente federale, di tutti quei discorsi, possiamo dire, sottoculturali che abbiamo ascoltato in assoluto, prima, dopo, le banane, i cosi, fa parte tutto di quel mondo. In realtà non so se mi manca un pezzo, perché adesso alcuni amici mi hanno segnalato che, oltre alle prime intercettazioni che ha fatto sentire anche Repubblica, ce ne siano altre con un tono anche minaccioso nei confronti di Iodice, no? Sì. Io questo non le ho sentite. In relazione invece a quello che ho sentito io, al di là del fatto che non amo le intercettazioni telefoniche e non mi piace neanche, e lo dico con tutto che non ho nella grande simpatia lo Tito, l'idea che qualcuno ti chiama e registra la telefonata, certo, senza... No, bisognerebbe discutere di confini di legalità, ma che valgono nella società civile, no? Sì, sì, ma oltre ai confini di legalità, proprio etici, no? Nel senso, l'idea che se io e te chiacchieriamo un attimo, tu mi stai registrando, al di là del fatto politico sportivo, ma in assoluto nella vita, a volte quanti di noi, magari perché hanno un impegno, non vogliono mantenere, non voglio andare a questo appuntamento, ti invento una scusa, voglio dire, dai, insomma, c'è anche la libertà di dire qualche bugia nella vita, no? Adesso al di là di questo, non sarà bello, ma è così. Quindi al di là del comportamento di Iodice, io le cose che su cui rimango perplesso, non scandalizzato, perché insomma il personaggio lo conosco, sono soprattutto le frasi su Beretta, Macalli, che sono suoi amici, e qui rientra nel fatto che lui però le possa dire in un certo modo per accattivarsi di Iodice, però sì. Beretta conta zero, lo possiamo pure pensare tutti, possiamo pure pensare che ormai la Lega e la Federazione sono una cosa sola, però non è bello, no, che esca fuori, certo. Esca fuori così. E poi questa del Carpi e del Frosinone, per me che avendo qualche anno in più sono cresciuto nell'amore per il Padova e la Spalla, perché sì, io sono stato anche tifoso da bambino della Lazio, però le figurine, i dischetti Ferrero, cioè era un mondo magico dove immaginavi il presidente Mazza, il Rocco e il Padova, Blason Pin scagnellato, cioè capito? Cioè queste cose, quando vedi che invece c'è chi governa il calcio li vorrebbe completamente annullare, questo può essere utile per fare qualche soldo ora, ma ammazzano la passione, e se ammazzi la passione ammazzi il gioco del calcio, e quindi è questo, più che scandalizzarmi, mi fa male come vecchio appassionato. Sì, poi sarebbe bello, perché poi ci sono anche riferimenti alla Federcalcio e tutto, che nell'arco di qualche ora il presidente del CONI Malagò battesse un colpo, ci facesse sapere qualcosa. Più ancora che per la questione dei libri di Tavecchio, che detto, ma l'abbiamo detto anche ieri, è certamente qualcosa di spiacevole, ma può anche far parte di un malcostume. Però qui andiamo proprio al cuore del governo, di quella che è la federazione più importante, quella che incassa più soldi pubblici, perché questo accade attraverso il CONI. Sarebbe bello che battesse un colpo. Senza dubbio, e ti devo dire che, siccome lo pensavo diciamo 10 minuti fa, avevo lo stesso tuo pensiero, mi sento di dire che nel giro di 3-4 ore, mi auguro, oltre che sperarlo, che ci sia questa. Io volevo soltanto aggiungere una cosa, quando parlavo del Carpi e del Frosinone, questo fatto di dichiarare ma a Bod mi fa salire, lo stavo sentendo anche nel collegamento precedente, mi fa salire queste squadre che non contano niente, al di là della partecipazione e della comprensione verso i cittadini di queste città. Questo lasciare intendere che quindi in realtà c'è un sistema che... E questa è la cosa più grave. Chi va e non va è una cosa gravissima. Oltretutto perché aveva fatto una protesta per il sorteggio arbitrale, proprio per mettere più trasparenza, per cui sarà tutto un altro discorso. Però questo è grave. Rimane il fatto che anche questo è un parlare del tipo, sai, potrà sempre dirti, ma io volevo dire chiaramente che questa Serie B permette di far salire il Carpi e il Frosinone, però questo lo dico per tentare tarda ricerca del massimo dell'obiettività. Però sentirtelo dire da quello che ormai rappresenta il potere nel calcio, dai, fa male, quindi tu dici è normale, ma è una normalità che non possiamo accettare. No. Comunque vi anticipo che entro sera il presidente federale Tavecchio dovrebbe dire far conoscere il suo pensiero sulla questione del Carpi, questione del Carpi, e poi su quell'altra dei soldi che c'è, perché c'è anche tutto il capitolo sui contributi, chi si è magnato cosa, 5 milioni, 10 milioni. E mi risulta che il presidente Tavecchio abbia qualcosa da spiegare. Speriamo. Aspettiamo. Grazie Michele. Grazie. Ciao Michele. Grazie a voi. Ciao. A proposito, la normalità è sempre là dove c'è un sistema sottoculturale. È normale per quel sistema sottoculturale. Certo, ai noi. Certo. Un abbraccio forte, ciao, buon Michele. Lavoro. Ciao Michele Plastino. Allora, cioè, mi ha raggiunto Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Buon pomeriggio a tutti. Con cui non parleremo del Carpi, neanche del Genoa, sua squadra del cuore, ma del Senazione. Ma se vuoi diciamo però che al vertice del rugby nazionale, a parte le franchigie, ci sono delle squadre di provincia, però vabbè, a parte il calcio questo succede. Però la cassetta la fa la nazionale. La cassetta la fa nazionale, speriamo che continui, c'è stata una lieve flessione di pubblico sabato all'Olimpico, però 58.000 spettatori... vanno ancora bene. Come è messa la FIR? La FIR non è messa male dal punto di vista economico, è messa tutt'altro che male, credo che stia raggiungendo i 50 milioni di budget annuo e che sia una delle federazioni più benestanti d'Italia, anche perché ha degli introiti direttamente o indirettamente legati proprio alla partecipazione al Sei Nazioni, sì, quindi questo è quello che ci aiuta tantissimo, cioè che aiuta la federazione sia come somme che vengono incassate per la partecipazione e somme che vengono incassate dagli sponsor richiamati soprattutto da questo grande torneo. Comunque, fra parentesi, non è che per fare il Sei Nazioni non ti chiedono dei parametri economici di stadio, di televisione che trasmette in diretta l'evento, altrimenti il Sei Nazioni non te lo fanno fare insieme a tutte le altre. No, indubbiamente, anche sicuramente quando l'Italia è entrata nel Sei Nazioni c'è entrata perché in quel momento aveva una squadra forte che aveva saputo battere in diverse occasioni Francia, Irlanda, Scozia. C'è entrata per il buon lavorio diplomatico della federazione, c'è entrata perché si allargava molto il bacino di utenza del torneo, perché a parte Francia e Inghilterra, tra Galles, Scozia e Irlanda si fa un terzo della popolazione italiana, sì e no, quindi interessava l'ingresso dell'Italia anche per quel motivo, oltre che per raddoppiare il numero delle partite che si giocavano nel torneo e quindi aumentare il peso dei diritti televisivi da vendere. Però vedi Giovanni, come in questo caso faccia cassetta, cioè il forziere sia un torneo in cui promozione e retrocessione non esistono, in cui stai lì grosso modo per e poi in ogni caso il meglio del rugby italiano è andato a giocare in un sistema di quel tipo, la Celtic League. Sì, c'è da dire che ogni tanto naturalmente parte e direi che dal punto di vista sportivo non possiamo dire che sia del tutto ingiustificata la domanda, ma l'Italia deve per forza stare nel Sei Nazioni? Secondo me, posto così, il problema è sbagliato, piuttosto si potrebbe dire ma perché le Sei Nazioni sono sempre quelle sei, perché se una volta o per alcuni anni di seguito per ultima arrivasse la Scozia, che d'altronde ogni tanto arriva ultima, insomma, si potrebbe porre lo stesso problema per la Scozia, quindi il campionato è chiuso, certo bisogna comunque provare al massimo delle proprie capacità di essere in grado di sostenere questo Sei Nazioni. Per esempio si può notare che la partita dell'Italia al sabato viene sempre giocata per prima, questo significa, credo, che da un punto di vista televisivo sia quella un po' meno appetibile, per cui magari anche all'estero le famiglie faranno i loro giri e poi finalmente i papà con la birra davanti vanno a guardare la Francia, club, l'Inghilterra, e si vedono queste sfide domani. Quindi domani vinciamo con l'Inghilterra? No, domani non vinciamo, dirò che l'Inghilterra ora come ora è stata veramente sorprendente. Anche sabato in Galles perdeva 10-0, ha vinto 21-16, ma avrebbe potuto vincere anche di più. È una squadra con un serbatoio infinito. Quest'anno secondo me sta mettendo a posto le due cose che le servono di più, cioè ha ritrovato una solidità che spesso la faceva vincere anche con un gioco noioso, però ha dei tre quarti fortissimi. C'è stata una meta, la seconda segnata in Galles da questo centro Jonathan Joseph, che fa venire in mente quello che si diceva di Barry John, grande mediano di apertura gallese del passato, cioè una volta lo hanno visto rientrare negli spogliatoi aprendo la porta e i suoi avversari hanno detto: beh, fortuna che deve aprire la porta, credevamo che passasse attraverso il muro. Lui ha fatto una cosa del genere, in un metro quadrato attorniato da tre giocatori se n'è andato. Quindi l'Inghilterra è forse anche la favorita del torneo insieme all'Irlanda. Ho visto che Planet Rugby, che è forse il sito più letto a livello internazionale, dà l'Inghilterra vincente con uno scarto di 15 punti e devo andrebbe dire anche bene. Ecco, sì, ci mettiamo a voi. E lo penso anch'io, ecco, sicuramente potrebbe andare bene. Dopodiché l'Italia può migliorare, può essere più solida, soprattutto quello che spiace di questa squadra è che ogni due partite viene fuori un problema nuovo, che poi magari va a esaurirsi, però quello che nessuno si poteva aspettare sabato è che in fase di conquista della palla due palloni su tre li conquistassero gli irlandesi, e quindi visto che loro sono già più forti di base, sono già più forti come organizzazione di gioco, l'Italia è riuscita paradossalmente a perdere con 20 punti di scarto solo perché ha difeso egregiamente, questo è tutto dire purtroppo. Senti, novità azzurre? Novità azzurre ce ne sono, in mischia c'è una novità per ogni linea, entra De Marchi in prima linea al posto di Aghero, torna Bortolami che è un capitano, c'è un capitano storico anche se non è l'attuale capitano ed è molto importante in rimessa laterale, e c'è Mauro Bergamasco che batte il record all time di durata di un giocatore azzurro perché lui è esordito nel 98 e adesso c'è ancora, siamo a 16 anni abbondanti. E ci sono stati anche degli infortuni, ragion per cui rientra Venditti all'ala, sappiamo che Campagnaro e Zanni hanno già finito il Sei Nazioni, c'è qualche spostamento interno, va a estremo McLean, Masi diventa centro, sembra una squadra più solida, più potente, e questo ci vuole contro un'Inghilterra che da quel punto di vista sportivamente fa paura. Sì. Chiudiamo con Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi permetto una amara considerazione, nel senso che siamo sempre a parlare tutto sommato di situazioni più o meno analoghe e in decenni senza aver mai affrontato il problema a monte, partendo anche dal rifinanziamento dei contributi Lazio senza farla fallire. Altre aziende con centinaia di operai sarebbero state chiuse, i titolari in galera, lo stato di diritto e l'etica, siamo sempre lì, non viene mai affrontato il problema e viene fatta una cosa, passatemi, con molta amarezza all'italiana. Sì, anche se dobbiamo dire che non è Lotito che sarebbe finito in galera, in questo caso. No, visto che ne abbiamo parlato male per un'ora e mezza. No, poi, diciamo che sulla questione delle rate, del debito col fisco, il debito non era suo, cioè lui l'aveva ereditato. No, per l'amor di Dio, io non parlo di Lotito di niente. Il debito col era antecedente a anni, ma poi c'erano altre situazioni pregresse, non della Lazio, ma di altre situazioni, e periodicamente si è lì a mettere le pezze, a sentire qualcuno che spara cavolate, e mai viene affrontato il problema, l'etica è sparita, la vergogna l'hanno cancellata dalla Trecani. E con molta amarezza veramente non la... io la posso capire, capire l'amarezza, posso capire, citando il grande Bete, l'etica non va in prescrizione, l'etica non e va in prescrizione bene. Torneremo a parlare nelle prossime settimane. Giancarlo Abete, a proposito della prescrizione di Moratti, se possiamo citare il latinista, insomma un po' improbabile, Lotito, quei debiti rispetto a lui erano debiti ex ante, ma comunque è meglio non sottovalutare le osservazioni sacrosante dell'ascoltatore. Non bisogna sottovalutare, saranno stati ex ante, ma hanno fatto la fine della Nutella. Quindi. Grazie Giacomo Bagnasco, ovviamente Giovanni Capuano che ritroveremo domenica dalle 5 alle 7 come d'abitudine. Speriamo con qualche polemica, perché non se ne può più di queste settimane. Con qualche gol regolare. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Beh, ci sentiamo domenica tutti quanti, ciao. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio non me la sento di indossare altre trasmissioni.